volte perdiamo di vista quello che la parola di Dio dice, e a volte ci chiudiamo troppo facilmente in quelli che sono dei contenitori, degli scatoli, dei programmi, delle attività che svolgiamo come Chiesa. Ma la Chiesa è questo, la Chiesa è famiglia, la Chiesa è casa, la Chiesa sono le relazioni. La Chiesa non è un edificio, lo sappiamo, e non sono dei programmi. La Chiesa sono le relazioni tra credenti che hanno in comune la nascita nuova in Cristo Gesù e che insieme hanno deciso di seguire Gesù nella loro vita. E quindi noi viviamo vita insieme. E a volte si viene in chiesa in un programma come quello di questa sera e ci si indossa una maschera, è vero? Si cerca di far vedere la parte migliore di noi. Perché? Perché siamo in chiesa, no? Allora quando viene un fratello, una sorella e ti chiede come stai, allora tu finisci per dire bene, sempre bene, troppo bene. Quando invece dentro di noi magari c'è rottura, c'è depressione, c'è stanchezza, c'è amarezza, c'è rabbia, ci sono tanti di quei sentimenti sbagliati. La chiesa è un luogo nel quale noi possiamo, e anzi direi meglio, dobbiamo essere autentici. Questo è un luogo dove noi dobbiamo essere noi stessi, con tutti i nostri dubbi, con tutte le nostre incertezze, con tutte le nostre cose sbagliate, tutte le nostre macchie. Non è il luogo per venire perfetti, è il luogo nel quale noi possiamo essere perfezionati. E possiamo essere perfezionati perché abbiamo un Gesù, un Salvatore, un Dio vicino che vuole intervenire nelle nostre vite. E sapete, la Bibbia dice che noi vinciamo nella nostra vita nel momento in cui ci armiamo delle giuste armi. E Gesù ci presenta queste armi. E una di queste armi è sicuramente l'adorazione. C'è un libro intero nella Bibbia che è dedicato all'adorazione. E i salmisti nell'adorazione, in modo particolare il salmista Davide, più di una volta lo vediamo scrivere canzoni nelle quali dice: anima mia, loda l'Eterno. Anima mia, gioisci nell'Eterno. Anima mia, fortificati nell'Eterno. Il salmista predicava alla sua anima. Sai che cos'è l'anima? La tua parte interiore. Proprio lì dove ci sono tutte quelle cose che puoi nascondere agli altri, ma che Dio conosce, dove ci sono tutte quelle mancanze, dove c'è rabbia, dove c'è amarezza, dove c'è confusione, dove c'è dubbio, dove c'è lotta, dove c'è dolore, dove c'è depressione, dove c'è oppressione, quella è l'anima. E noi possiamo indossare un bellissimo sorriso nascondendo la stanchezza e la tristezza che c'è nell'anima. Ma quello che la Bibbia ci insegna a fare attraverso il libro dei Salmi è prendere autorità, perché in quali credenti possiamo non essere schiacciati e controllati dall'anima, ma possiamo piuttosto rinnovare l'anima nostra in Cristo Gesù e permettere all'anima nostra di riposizionarsi nella giusta posizione. Sai qual è la giusta posizione dell'anima tua? Una posizione di gioia, una posizione di pace, una posizione di ristoro, una posizione di sicurezza, una posizione di fiducia, una posizione dove tu sei sicuro di quello che vivi perché Cristo sai che è dalla parte tua. Però a volte è necessario che facciamo esattamente quello che il salmista fa, che prendiamo autorità sull'anima nostra e cominciamo a predicare alla nostra anima e cominciamo a dire alla nostra anima: basta ad essere abbattuta, basta ad essere scoraggiata, basta ad essere nella tristezza, basta ad essere nella confusione, basta essere nel dubbio. Loda l'Eterno, elevati a quella dimensione che ti permette di sconfiggere ogni battaglia a te esteriore, ma la puoi vincere solo nel momento in cui tu parti da dentro di te, dall'anima. Quando comandi alla tua anima e dici: anima, allineati alla volontà di Dio, anima, gioisci nell'Eterno, anima, loda l'Eterno. È per questo che noi leggiamo di quella storia molto bella negli Atti degli Apostoli, dove ci sono Paolo e Sila che erano in una prigione, nella parte più buia, più... c'è scritto nella parte più bassa, più interna di una prigione romana. Erano lì nel buio, sicuramente. Erano lì fra feci, fra animali, in una situazione dove avevano ceppi alle caviglie, grosse sbarre che li bloccavano, ed erano stati da poco torturati, quindi immaginate, erano sofferenti nel loro fisico. E troviamo Paolo e Sila che fanno cosa? A mezzanotte, quando tutto poteva essere buio, tenebroso, deprimente, triste, amareggiante, e poteva far nascere in loro rabbia, disappunto per tutto quello che stavano vivendo, che cosa fanno Paolo e Sila? Si mettono ad adorare e comandano alla loro anima di non farsi influenzare da ciò che li circondava, da ciò che era fuori di loro, esteriore a loro. Sappiamo quello che succede. Lodano il Signore, cantano inni a Dio, alzano la loro voce in modo tale che gli altri carcerati li sentivano. E Dio interviene e scende in quel carcere, rompendo quelli che erano i ceppi che erano ai loro piedi, aprendo le sbarre dei carceri e permettendo non solo a loro di uscire, ma anche a tutti gli altri prigionieri. E quel lutto, quel potenziale lutto, si è trasformata in una celebrazione. La festa di stasera è tale non perché gonfiamo dei palloncini, non perché abbiamo della bella musica e dei bei fari. La festa di stasera è tale perché tu decidi di dire all'anima tua: loda l'Eterno. Tu decidi di dire all'anima tua: non farti abbattere. Loda il Signore, perché Lui è buono, sempre buono, eternamente buono. E tu ricordi all'anima tua tutte le cose che Lui ti ha permesso di vincere. Tu ricordi all'anima tua che cosa Lui ha fatto, e tu confessi la vittoria in Cristo Gesù in adorazione. Quindi quello che stiamo per fare ora è vivere un altro tempo di adorazione, attraverso dei brani, attraverso dei canti. Però è un tempo che sta a te decidere come viverlo. Sei tu che questa sera decidi se farti condizionare dal caldo, dalla stanchezza, da quello che vivi, dall'oppressione, dalle cose che non vanno, da situazioni e bagagli che ti sei portato qui questa sera, o decidi di dire: io sono qui per celebrare il mio Dio, perché Lui è sempre buono, perché Lui ha il controllo della mia vita. Io sono più che vincitore nel nome di Cristo Gesù, e appartengo a un Dio che mi fa elevare sopra la tempesta, perché Lui è colui che calma le tempeste. E io posso elevarmi al di sopra dei dolori fisici, perché Lui è più grande di ogni tortura che ho subito. Io posso elevarmi alla statura di libera, di persona libera, perché non sono queste prigioni a confinarmi, ma io sono libero in quanto Dio mi ha chiamato ad essere libero. È una tua scelta. Io ti voglio invitare a prendere questa sera come opportunità per essere libero, perché non sarà la mia preghiera a liberarti e non sarà la canzone di questo gruppo a portarti in quella condizione, ma è la tua scelta di dire alla tua anima: loda l'Eterno. Alza stasera le tue mani, alza il tuo canto nuovo, prega Dio, ringrazialo e lodalo, e permetti alla tua anima di entrare in quel territorio che ti spetta per diritto in Cristo Gesù. Vogliamo alzarci in piedi? Se vuoi farlo con me, ti chiedo di alzare le tue mani dovunque ti trovi. Vogliamo cominciare ad adorare il nome di Gesù. Mentre la musica ci accompagna, cominciamo a cantare il prossimo brano. Io ti chiedo, dovunque ti trovi, comincia ad adorare il Signore, a ringraziarlo per quello che Lui ha fatto, per quello che Lui fa, per quello che Lui farà. In fede lo puoi dire. Adora il Signore Gesù con tutto il tuo cuore. Facciamolo insieme.